Un margine serafico ancor resiste alla cattura del vile sublime. Ti desti veramente per poco, sposa ventisettenne che non sapeva far di conto. Ti libera a soprassalti ogni nuova disavventura. Hai 40 anni e raccogli i panni disseminati per terra dai ragazzi e adesso spalanchi grandi, occhi vuoti, di semicoscienza e non ti rendi conto che hai tutta la vita davanti, un limite al serafico dissesto e ciò che immetti con disprezzo nel sistema, con voli a giuste nozze con te stessa e per tua madre pensi non ti penti. L'abituro che convoglia le tue reste appartenenti non mostrerebbe all'apparenza segni di cedimenti, tranne certi lanicci occulti, a parte l'appartamento che ti riservi a caro prezzo per commutare quei piccoli escrementi del vile sublime che contendi sorridendo funesta all'orgia feroce che accompagna con lima sorda il modesto funerale del fallo in un sogno silente. Ti desti, arresti la moviola, non avendo più credito di fronte alle rettile pietrificato, ma ricevi in disparte il consolo di tutto il mondo vedovo. Per sopperire ti metti in lista d'attesa, resti in lizza, concedi freneticamente alla rubrica, con gli occhi pieni di terra da che rispolveri l'album idea giallognola delle tue seconde nozze riavvolgendo il crepitante filmino riversato come il tuo collo lungo di novizia offerto con gesto contrario ad una risata liberatoria da cerimonia. Allora le ossa peste, i polsi slogati, le vene sottili gonfie sull'ulna, scheggiato il tremolante pugno alzato che fu insieme ai lividi virati a macchia d'olio, di viola, in giallo ocra, la tua acre unzione di passaggio alla società secreta da martorianti orecchini in circonvoluzione del lobo. Appigli istantanei alla favola bella, frangione sugli occhi o treccia d'agli ricciuta i capelli che oggi ti induce a strisciare solerte verso la croce o a sbatterti su un letto di soprassalto col primo che passa, un pianto angusto, roco, quasi conato ti trattiene. Alla buona abitudine di un pasto saltato di fitoestrogeni per prolungare quanto resta ancora di ciclico nel tuo saporito, sottile, soporifero dolore.